Noi come mercatino multietnico della Montagnola siamo lì presenti da ormai 18 anni. Solitamente noi abbiamo sempre lavorato in concomitanza con i progetti del gestore del Parco della Montagnola, attualmente al Centoniano. Da qualche anno i nostri permessi sono stati elargiti a singhiozzo, con molta incertezza da parte dell'amministrazione comunale. Ci hanno permesso di esercitare la nostra attività con diverse formule. Il problema è che il comune non ha trovato, secondo lui, una formula stabile che potesse permetterci di stabilirci con tranquillità. E il motivo di tutto questo è dato da un problema che pone la sovrintendenza, che ha anche una responsabilità amministrativa. Insomma, l'inghippo è burocratico. Secondo me invece la cosa è molto politica. Ci sono delle implicazioni politiche che rendono il comune molto politicamente non convinto e che quindi non ci permette di esercitare la nostra attività. E volevo sottolineare anche il fatto che noi non siamo semplicemente un mercatino, ma siamo un'associazione multiculturale, antirazzista, che si è speso in tutti questi anni per fare aggregazione, per fare intrattenimento, per fare inclusione sociale, non soltanto con le parole, ma con molti fatti, con molti eventi che abbiamo organizzato, abbiamo usato le nostre risorse economiche ma soprattutto umane, ci siamo fatti aiutare anche da tante organizzazioni in realtà della associativa bolognese, quindi non siamo semplicemente dei commercianti ambulanti. Qual era il problema di natura burocratica? L'unico ostacolo che a parer nostro però ci sembra più una scusa è quello della sovrintendenza ai beni artistici, però cioè, questa cosa qua ci fa parecchio riflettere rispetto essendo stati 18 anni in Montagnola sappiamo benissimo in che condizioni è il Parco della Montagnola, poi senza pensare che comunque dentro c'è un parcheggio, quindi ci sembra pretestuoso questo vincolo menzionato dall'amministrazione, ci sembra più invece una volontà di eliminarci, sembra più una volontà su pressioni probabilmente in ambito commerciale, perché addirittura è riconfermata la disponibilità dei gestori del parco, quindi Antoniano e Arci, per quanto riguarda la nostra presenza compresa le attività culturali, e per cui ci sembra strano che l'amministrazione non prenda in considerazione questo percorso che è fattibile, ma perché anche per noi è sempre stato in questo modo. Cioè per la sovrintendenza cosa siete? Una fonte di deturpamento? Sì, a quanto pare sì, l'installazione dei 9 gazebo, non lo so, pure ci sarà un criterio razziale, non lo so, che non vada bene che la Montagnola stia molto etnica, non te lo so dire, noi la stiamo vivendo come una vera e propria discriminazione. Il vostro permesso scade la settimana prossima? Assolutamente sì, quindi negli ultimi anni ci hanno fatto andare avanti con delle autorizzazioni temporanee, siamo all'ennesima ultimatum, quindi il 27 che è sabato sarà l'ultima giornata di presenza. Voi avete parlato anche con il dirigente comunale Montalto, ecco che Montalto. Cosa vi ha detto? Sembrava quasi una comunicazione di chiusura di rapporti di lavoro, sembrava quasi una lettera di licenziamento, al che gli abbiamo risposto che l'Antoniano e l'Arci sarebbero disposti ad accoglierci nelle iniziative, ma non dici questa la mettiamo da una parte come ipotesi, quindi diciamo adesso in questo momento noi abbiamo davanti un muro a livello istituzionale e questo ci rincresce perché ci siamo spesi tantissimo in iniziative culturali, in manifestazioni musicali, attività per i bambini, non abbiamo mai preso un euro da parte delle istituzioni e lo troviamo offensivo, visto che la Montagnola c'ha i problemi che conosciamo tutti, insomma, di ghettizzazione, di abbandono. Pensate che senza la vostra presenza le cose possano peggiorare in Montagnola? Beh, ma assolutamente sì, perlomeno il venerdì e il sabato non siamo nemmeno la soluzione del problema, non vogliamo manco dire che siamo la soluzione del problema Montagnola, però noi abbiamo fatto diverse iniziative dove le persone hanno firmato, abbiamo raccolto più di 2000 firme, quindi le persone riconoscono i cittadini riconoscono il valore della nostra presenza all'interno del parco il venerdì e il sabato, viene detto in continuazione, se non ci siete voi non è possibile entrare dentro il parco, quindi il 27 ci saremo e poi sarà evidente a tutti che cosa diventa la Montagnola. Quindi voi sostanzialmente chiedete all'amministrazione di ripensarci? Assolutamente. assolutamente sì, c'è la possibilità di farlo e non si capisce, le motivazioni non esistono. Siamo disposti a mettere in atto un percorso di lotta, perché dopo 18 anni non è ammissibile che si tratti le persone in questo modo, sia come aspetto lavorativo ma anche come percorso di associazione, progetto sociale. A proposito della questione lavorativa, quante persone insomma lavorano nei vostri banchetti? Si parla di 15, diciamo siamo 15 persone, quindicina di persone, che vuol dire 15 famiglie, siamo alcuni italiani, ci sono ragazzi africani, ci sono ragazzi della Nigeria, del Senegal, del Sudan, poi siamo anche noi, siamo italiani, voglio dire, sono 15 famiglie, per alcuni di noi è l'unica forma di sostentamento. All'interno ci sono ragazzi che sono rifugiati, che anche loro ci danno una mano nelle varie attività, per cui abbiamo cercato di fare un discorso inclusivo anche nel senso pratico, no? Prodotti che noi mettiamo sulle bancarelle provengono da altri, quindi c'è anche tutto il giro di artigiani, si parla di centinaia di artigiani a cui noi acquistiamo i prodotti in Africa, direttamente in Africa.